in primo piano. Questo giovedì 20, scusate, 30 di settembre. Ebbene, i titoli dei giornali sono emblematici: fiducia a Berlusconi, decisivi i Finiani per Il Sole, c'è la fiducia ma si pensa al voto per La Stampa, fiducia a Berlusconi, Finiani decisivi per Il Corriere, Berlusconi salvato dai Finiani per Repubblica. Sentite il giornale: la fiducia patacca di Fini, e così via, eh? Cioè la sensazione, poi lo vedremo dopo pubblicità e meteo quando apriremo l'ampia pagina politica sui giornali, la sensazione di tutti i giornali è: la fiducia è arrivata, ma la maggioranza politica non c'è, non è così forte e si andrà a votare. Qualcuno dice a marzo è ormai la strada più probabile. Ma vedremo di spiegare, cercheremo di spiegare perché. Intanto io vorrei partire da quello che ieri abbiamo annunciato dai giornali, no? Questa uscita che si è meritata il nostro singolare premio Bromuro a colazione per Joan Maria Pini, il docente di armonia del conservatorio, che in una discussione su Facebook ha detto bisognerebbe tornare alla selezione naturale, al ritorno alla rupe tarpea per i disabili, poi smentendo, dicendo di no. Ebbene, ci sono sviluppi perché il ministro dell'istruzione Gelmini ha mandato gli ispettori. Ispezione della Gelmini sul professore antidisabili. Pagina 24 del Corriere della Sera. Il conservatorio, tra l'altro, dove insegna questo professore Pini, via chi elogia in rete la rupe tarpea. Tra l'altro il professor Pini è anche immortalato in una foto con una bandiera della Lega, di cui pare sia simpatizzante, tanto che anche il capogruppo del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni, ha detto: era anche sul mio profilo Facebook come amico, lo cancellerò subito. Oggi Massimo Gramellini, buongiorno, si cimenta proprio su questo, rupe tarpea, tra l'altro anche lui confermando, perché ci scrivono ancora in tanto che la rupe tarpea è a Roma, come andiamo dicendo da due giorni, mentre tutti ci dicono no, è a Sparta, è a Sparta. È vero, a Sparta buttavano i disabili, ma la rupe tarpea è a Roma, e spero di essere definitivo con questo chiarimento. E se no andate su Google, mettete rupe tarpea, ci mettete 3 secondi a scoprire dov'è, se continuate a insistere che è a Sparta. Rupe tarpea, il buongiorno di Massimo Gramellini. Prima della didattica viene la genetica, sentenzia un professore del Conservatorio di Milano su Facebook, la piazza di internet dove si chiacchiera con le dita e spesso si straparla. Prima della didattica viene la genetica. Quindi ha proprio ragione quell'assessore di Chieri che a scuola vuol separare i bambini disabili dai normali. Alla rupe tarpea bisognerebbe tornare, rievoca il nostalgico il professore, perché stiamo decadendo geneticamente. Una pseudoscienza senza bussole fa campare persone che non dovrebbero. E guai a dargli del nazista, cosa che non sono, o del razzista, inconcepibile. Lui è una persona che ragiona liberamente e ragionando, scrive: prima della didattica viene la genetica. Che peccato, perché se invece fosse venuta prima la didattica, durante il suo lungo corso di studi, il professore avrebbe imparato che dalla rupe tarpea i romani non gettavano i disabili, ma i traditori della patria. Era Sparta che selezionavano la razza abbandonandone i frutti meno ortodossi. E poiché la cultura è come le ciliegie, ogni nozione se ne tira dietro un'altra, il prof avrebbe anche potuto riflettere sul destino singolare degli spartani, che unici nel mondo greco non hanno lasciato all'umanità uno scultore, un architetto, un filosofo, un musicista. Non sarà che a furia di spuntare quelli che ritenevano imperfetti si ritrovarono con una massa di bietoloni allergici al nuovo e al diverso come certi contemporanei? Rupe tarpea oggi è in prima pagina della Stampa di Gramellini. Io voglio invitarvi anche a una lettura che trovate sempre sulla Stampa, pagina 15, visto che si parla molto di pena di morte, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, l'8 ottobre tra l'altro è la giornata mondiale ogni anno contro la pena di morte. Il boia ha finito il veleno, è un articolo da Los Angeles di Lorenzo Soria. L'esecuzione era stata annunciata per le 9 di sera di oggi californiane per Greenwood Brown, che ha stuprato e poi ucciso 30 anni fa una ragazza di 15 anni. Invece è tutto sospeso. Il solito cavillo legale, un ripensamento morale del governatore Schwarzenegger? No. La ragione è che l'unica dose che c'era di Pentotal, il barbiturico concepito come anestetico, è scaduta. E non è possibile ottenere nuovi dosaggi perché la casa farmaceutica che la produce non ha più rifornimenti. fino a marzo dell'anno prossimo e forse neanche per quella data. Per Brown e altri 708 condannati a morte, ospiti di varie prigioni californiane, significa che il momento della loro esecuzione si allontana. Ma il problema non è solo in California. Ci sono altri stati in questa situazione, cioè mancano le scorte di veleno che uccide nell'iniezione letale. In Virginia l'ultima dose è stata iniettata la settimana scorsa su Teresa Lewis. In Kentucky hanno una sola dose, ma scade il 1 ottobre. In Arizona anche. E dunque un'esecuzione prevista per il 26 di quel mese verrà rinviata. In Oklahoma poi c'è una situazione che, se non ci fossero di mezzo vita e morte, vittime e violenza, potrebbe essere il soggetto di una commedia dark. Ci sono 2 condannati pronti all'esecuzione, ma una sola dose. E i rispettivi avvocati hanno inondato i tribunali di ingiunzioni per stabilire chi deve morire per primo, col risultato che per adesso sono entrambi ancora vivi. Una macabra forma di roulette russa. Ebbene, anche questo, la pena di morte, il boia, ha finito il veleno, esaurite le scorte di barbiturici, per ora esecuzioni sospese, e da questa cosa nel paese crescono i dubbi. Così la macchina della pena capitale per ora si è fermata in attesa del ritorno sul mercato del sodio tiopental previsto per marzo 2011. Lorenzo Soria sulla Stampa, pagina 15. Vi invito a questa lettura, dopodiché ci fermiamo e riprenderemo dalla ampia pagina politica. 7:35 minuti, dunque l'ampia pagina politica è anche il tema del nostro sondaggio. Delle 8:30 ne parleremo, vi chiediamo, dopo il voto di fiducia, secondo voi il governo è più forte? Per il momento l'80% di voi sta rispondendo di no. E c'è da dire che è un po' la tendenza che si coglie leggendo qualsiasi giornale oggi in edicola. Come detto, i titoli sono abbastanza scettici. Io voglio fare una cosa un po' innovativa, leggere 3 o 4 righe di tanti editoriali qua e là che trovate nelle prime pagine dei giornali. Poi mi direte se l'analisi non è più o meno simile. Detto che, premessa, la fiducia è arrivata, sono 342 voti ottenuti al discorso di Berlusconi. Perché allora si dice, ma come, se c'è la maggioranza di fiducia c'è un problema? Perché se a questi 342 voti si togliessero i 35 voti dei Fignani, ieri 31 per la verità hanno votato sì, e i 4 che hanno votato sì del Movimento per le Autonomie e quelle di Lombardo, voti che in un futuro qualcuno potrebbe mettere in discussione, ecco che si scenderebbe a 307 voti, la maggioranza è a 309, quindi Berlusconi, che ieri ha ottenuto la fiducia perché ieri questi voti sono arrivati, un domani potrebbe non averli più questi voti. Questa è l'analisi politica. E allora Stefano Folli sul Sole 24 Ore: non basta un discorso ben costruito per risolvere problemi politici profondi, risentimenti a lungo coltivati. Se dobbiamo ricavare dalla giornata di ieri una previsione sul prossimo futuro della legislatura, i motivi di pessimismo sono di gran lunga prevalenti. Massimo Franco sul Corriere della Sera: aveva chiesto un sì o un no, ha ottenuto una risposta formalmente, solo formalmente, positiva. In realtà il governo ha ricevuto un viatico gonfio di insidie. Ezio Mauro, il direttore di Repubblica: tutto è cambiato, il premier rimane in sella ma in un paesaggio politico completamente diverso. Confini, che vara il suo nuovo partito e si allea con Lombardo, moltiplicando fino a 4 i gruppi di maggioranza. È nato il Berlusconi bis. A numeri intatti, la forza elettorale si è trasformata 2 anni dopo in debolezza patente della leadership. La Stampa, Marcello Sorgi: ha vinto eppure ha perso. Questo è il titolo dell'editoriale. Non è semplice spiegare che Berlusconi è stato sconfitto ottenendo una delle maggioranze più larghe, 342 voti, che si siano mai viste a Montecitorio. Ma è così, per i motivi che abbiamo spiegato. Sentite il giornale: la fiducia patacca di Fini, il neo direttore Alessandro Sallusti: la fiducia c'è, ma si andrà a votare, perché la maggioranza numerica non corrisponde a quella politica. Il sì al discorso di Berlusconi, votato dai Fignani, è una patacca, uno stratagemma per prendere ancora un po' di tempo prima di pugnalare alle spalle la maggioranza. E ancora si potrebbe continuare. Il Manifesto, Norma Rangeri, il direttore: le riforme, il sud, la giustizia, le tasse, la sicurezza, il federalismo, l'unica cosa che veramente conta per il Presidente del Consiglio sono i sondaggi che gli agitano le notti, col pericolo rosso di un'onda anomala di astensionismo. E il titolo dell'editoriale è Fiducia a pezzi. Ma ovunque La sensazione è questa. È arrivata la fiducia, come a pagina 3 del Sole 24 Ore spiega Barbara Fiammeri raccontando la giornata politica, ma intanto, per esempio, martedì Fini annuncia il nuovo partito, o meglio, c'è il percorso per il nuovo partito. Già martedì prossimo sono convocati tutti gli eletti per costituire il comitato promotore, si andrà verso questa direzione. Tra l'altro Francesco Verderami sul Corriere della Sera racconta che non è più questione di quando, o meglio, di se, ma di quando. Fini, a pagina 8, lo racconta Verderami, confermando le indiscrezioni che già sulla stampa sono uscite da un paio di giorni, Fini prima o poi si dimetterà da presidente della Camera. Ipotesi dimissioni a inizio novembre, Fini è pronto a cambiare vita, cambiare casa, domicilio privato, residenza pubblica, a volersi liberare dal passato, scrive Verderami. Sebbene il timing sia da verificare, sua intenzione sarebbe quella di dimettersi dalla carica che ricopre all'inizio di novembre all'atto di nascita del suo nuovo partito. È consapevole Fini di non poter restare oltre a Montecitorio, non aveva bisogno di conoscere il pensiero di Napolitano. Ed ecco la scelta. Fini ha scelto e Berlusconi non è parso colto di sorpresa nell'apprendere la notizia e il senso della sfida che l'ex leader di AN intende lanciargli. Quindi, secondo Francesco Verderami sul Corriere, Fini ha già deciso di dimettersi. Martedì dovrebbe essere il primo percorso per la nascita del nuovo partito. Basta leggere Il Secolo d'Italia, l'organo di stampa vicino a Fini. Siamo stati decisivi e ora si fa il partito. Questo è il titolo di apertura del Secolo d'Italia, più esplicito di così. Ma guardate, se ci soffermiamo alla cronaca è una cosa, ma se leggete il retroscena della politica è abbastanza probabile che la strada più obbligata sia quella del voto. L'ultimatum del Premier, andiamo avanti, ma al primo scherzo si vota, per esempio Marco Galluzzo sul Corriere, racconta di un Berlusconi molto deluso. Quante cose avrei da dire e da dire non posso dire. Quante cose. Ecco come inizia la giornata più lunga del Cavaliere, che dice alla fine mi aspettavo di più, mi sono tenuto, andrà tutto bene. Ma in realtà la previsione è sbagliata. Tanto che credo sulla 7 è stato intercettato il ministro dell'Interno Maroni a dire si voterà. E secondo me a marzo, e infatti anche la Padania, Bossi, il titolo d'apertura, governo, numeri limitati, la strada maestra è il voto, e una serie di pagine all'interno della Padania, fiducia incassata ma si naviga a vista, e ancora pagina 4, potrà essere questo ancora il governo del fare? Cioè la Lega è la più dubbiosa come forza politica ad andare avanti. Trovate molto del gelo, il grande gelo tra i duellanti Silvio e Gianfranco, ne scrive Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera, il gelo tra Silvio e Fini a Montecitorio anche per Repubblica, così non si va avanti, a marzo voteremo, questo Franco Bechis, il vice direttore di Libero. Insomma, vedete che sono abbastanza unanimi. Trovate forse interessante, se andate a leggere qua e là i retroscena, quando succedono queste giornate importanti per la politica italiana, no? I giorni della fiducia, trovate sempre gli articoli molto interessanti che raccontano, da parte di chi era presente, i retroscena, un po' le battute che vengono dette tra i parlamentari. Per esempio, una su tutti è quella di Berlusconi, che dopo l'intervento di Massimo Donadi dell'Italia dei Valori, quindi il grande nemico, l'Italia dei Valori, che cosa fa Berlusconi? Rincorre, lascia lo scranno di Montecitorio e rincorre Massimo Donadi, lo avvicina e gli dice: ma lei è sempre così cattivo? E Donadi: no, io sono buono, non ce l'ho con lei, ce l'ho con quello che lei fa. E Berlusconi: guardi che anch'io sono molto buono, pensi che mia mamma e Cossiga mi sconsigliarono di entrare in politica per via della mia bontà. E Donadi: beh, doveva seguirlo quel consiglio. Gira i tacchi e se ne va. Con Berlusconi che però riesce a fargli un'ultima battuta, pare a dire: beh, almeno Donadi mi riconosca questo, sto vivendo un gran compleanno di merda, perché ieri era appunto il compleanno anche di Silvio Berlusconi e anche di Bersani, quindi auguri a entrambi. Oppure, come non trovare straordinaria l'incontro straordinario, l'incontro che Antonello Caporale su Repubblica fa con Nicolò Ghedini, proprio tra i corridoi di Montecitorio in attesa del voto alla fiducia. Lo trovate su Repubblica? La confessione di Ghedini, mezza Italia mi odia e la colpa è anche mia. Nicolò Ghedini, guardi che anch'io mi deprimo, eh? Sento il peso di una fatica che si fa sempre più dura o pensa che non abbia momenti di fragilità. Io sono il cattivo, il demonio, giusto? Ecco che parla Ghedini, un senza coscienza, uno che lo fa per soldi. Anzitutto non ho mai avuto bisogno di soldi, la politica non me ne ha portati più quelli di quelli che con le mie capacità sarei riuscito a guadagnare. Si chieda a lei invece se c'è davvero, non c'è una persecuzione, se e quando i giudici hanno sbagliato con Berlusconi. E ancora, Ghedini, io voglio bene a quell'uomo, penso sinceramente che sia vittima di azioni ingiuste. Antonello Caporale dice, guardi che le sue foto con la toga la fanno assomigliare a un pipistrello, un uccellaccio che fa guardia al capo, la belva da sciogliere nell'arena di Anno Zero, lui contro tutti. E ecco su Anno Zero, guardi, non mi piace andare lì, dice Ghedini, a rivestire quel ruolo, non mi piace quel ring dove ti chiamano solo perché vogliono sbranarti, ci vado, è un mio dovere, ma sento che soffia l'alito dell'odio e in qualche modo anch'io lo alimento, certo, con le parole, le rispostacce, i giudizi che devono essere dati subito, devono essere trancianti, percepisco la distanza che mi separa da tanta gente, quella che non tifa per la mia squadra, ma non è una sensazione simpatica, io rifletto e mi chiedo anche perché mi odiano tanto. No? Ghedini che si chiede perché mi odiano. Ah, se lo chiede pure, dice Antonello Caporale, guardi che non sono così presuntuoso da non sapere che avrò qualche colpa, né così impassibile da non ritenere che mezza Italia giudica me un diavolo, un cattivo, un orco, uno al servizio del potente, senza scrupoli, senza mezze misure. Questa dimensione, il cattivo, è difficile da sostenere. Io sono liberale, faccio politica perché penso di contribuire con le mie idee a rendere più civile e degno il nostro paese. Sono convinto di quello che faccio, sono persuaso di essere nel giusto. Lei è libero di non credermi, ma i prezzolati alzano bandiera comando, io no, io ci credo davvero a quel che dico, per chi mi scambia lei? E poi ancora, io penso di avere uno stile, un codice di comportamento, non ha trovato me sull'isolotto di Santa Lucia, per esempio, veda quanta varia umanità raccoglie il transatlantico stamane, ci sono virtù e ci sono miserie, debolezze altrui e nostre, io dico che bisognerebbe fermarsi e mettere un punto. E beh, insomma, uno straordinario colloquio di Nicolò Ghedini, che così in questo momento importante, questa giornata importante, si confessa, mezza Italia mi odia, la colpa è anche mia, ma mi chiedo anche perché, si confessa con Antonello Caporale su Repubblica. E poi c'è Di Pietro, riprenderemo da lui, lui che ha dato a Berlusconi dello stupratore. Stupro della democrazia. Questo è il titolo che campeggia pagina 5 del Fatto Quotidiano con l'intervento di Antonio Di Pietro che ha scatenato la bagarre in aula. Lei è uno spregiudicato illusionista, anzi un pregiudicato illusionista. Inizia così Di Pietro, già rumoreggia l'aula. E poi lei non è un presidente del Consiglio, ma uno stupratore della democrazia che dopo lo stupro si è fatto una ventina di leggi a personam per non rispondere di stupro. Lei non è, come alcuni l'hanno definito, uno dei tanti tentacoli della piovra. Lei è la testa della piovra politica che in questi ultimi 20 anni si è appropriata delle istituzioni in modo antidemocratico, criminale, per piegarle agli interessi personali suoi e dei suoi complici della setta massonica deviata di cui fa parte. Questo Antonio Di Pietro ieri in aula si è ovviamente scatenata la bagarre, è stato l'ultimo momento, l'unico momento in cui hanno fatto vedere anche e sottolineano vari opinionisti, hanno fatto vedere le immagini in cui Berlusconi a quel punto si è rivolto al presidente della Camera, a colui col quale c'è stato il grande gelo per tutto il giorno, a Gianfranco Fini, si è rivolto e gli ha un pochino puntato l'indice, come Fini puntò l'indice a Berlusconi nel famoso presidenza del partito, gli ha puntato l'indice come dire: può fermare un attimo quello che sta dicendo Di Pietro, insomma accuse molto molto forti, poi credo che anche quelle del PDL abbiano abbandonato l'aula. Beh, certo, parole non è la prima volta, ma insomma Di Pietro si è lasciato andare a considerazioni molto molto pesanti. Vabbè, questa è la cronaca politica. C'è anche da dire che Berlusconi si è anche molto adombrato quando si è parlato di compravendita di parlamentari, ma è un periodo in cui ci sono cambi di partito abbastanza notevoli, almeno numericamente. L'ultima è quella di l'ex prefetto Serra. Achille Serra lascia il PD e va all'UDC di Casini. Lo conferma in un'intervista, pagina 11 del Corriere della Sera, ad Alessandro Trocino: lascio il PD, passo all'UDC, me ne vado senza sbattere la porta. Ho aspettato il voto di fiducia per non essere coinvolto in questo squallido e vergognoso mercato parlamentare, perché non voglio confondermi con gente che si vende per tre mozzarelle, così Achille Serra. Sia ben chiaro, nessuno mi ha cercato, sono io che ho cercato l'UDC. Ma l'accuseranno di trasformismo, lo so, lo stupido cambia idea ogni giorno, oppure mai, ma dopo aver fatto la cavolata di entrare in Forza Italia, dopo 2 anni tornai a fare il poliziotto, con un governo di centrosinistra. Era un rischio, potevano mandarmi a pulire i gabinetti, invece grazie a quel galantuomo di Napolitano tornai a lavorare. Prima ad Ancona, poi Firenze e Roma, poi trovai Veltroni. Oggi non gli ho parlato, ma gliel'avevo annunciato. Lui mi pregò di aspettare, dicendo che le cose potevano cambiare. Ma non è cambiato nulla. Ho firmato il documento dei 76 del PD, ma dopo 2 giorni era tutto un volemo sebbene. Riappacificazione immediata. E lui che dice: sono molto amico di Veltroni, ma lascio il PD e altri usciranno dopo di me. Credo nel progetto di Casini, ho avuto rassicurazioni che è stato mandato fuori Cuffaro dall'UDC. Chi ha problemi con la giustizia deve essere cacciato a calci nel sedere. Così parlò Achille Serra, insomma, riprendendo anche il piglio del super poliziotto che è stato per tantissimi anni. Ora, per chiudere questa cosa dei passaggi di casacca tra i politici, fa un po' sorridere se devo prendere in mano la Gazzetta dello Sport, ma oggi Gene Gnocchi si produce nel rompipallone seguente: bel regalo dei giocatori del Milan per il compleanno di Berlusconi, gli hanno incartato un senatore dell'UDC. Tutta questa discussione ha fatto passare in secondo piano poi il senso del discorso di Berlusconi. Se lo volete sintetizzato, il Sole 24 Ore fa un'opera molto interessante a pagina 5 e trovate, vale a dire, i temi del discorso, sul fisco, federalismo, il sud, la giustizia, la sicurezza, tutti i vari temi analizzati, cosa è stato fatto finora, il programma del PDL del 2008, cosa prevede il discorso di Berlusconi, qual è il quadro attuale. Tutto per punto i 5 punti che Berlusconi ha trattato e nei quali ha incassato la fiducia ieri alla Camera. Anche se sappiamo che il dibattito sembra quasi a dire prima o poi si va a votare, addirittura il ministro Maroni sarebbe stato intercettato a dire si va a marzo, sta di fatto che se volete anche sintetizzato tutto il discorso a pagina 5 del Sole 24 Ore lo trovate con tutto quello che è stato detto da Berlusconi, le promesse, il programma di governo e a che punto siamo. Io, abbandonando la politica, ho solo una segnalazione per dire che cosa. La voglio usare per quello che c'è sul Corriere della Sera, dove trovate un'intera pagina molto intensa di Goffredo Buccini, che non è la prima volta, si è prodotto in vari articoli sulla vicenda di Sara Scazzi, questa 15enne scomparsa da Vetrana il 26 agosto mentre andava a casa della cugina. Ieri ne è stato trovato il cellulare dallo zio. Sara, il giallo del cellulare trovato dallo zio, a pagina 19 del Corriere della Sera, una pagina intensa dell'ultimo mistero legato a questa scomparsa, con questo zio che piange davanti alle telecamere, spalanca le braccia. È un caso, una combinazione, non volevo, lo giuro. Adesso che penserà la gente? Ve lo dico io. Ah, proprio lo zio lo doveva trovare? Ecco cosa penserà la gente. E in effetti, dice Goffredo Buccini, si concentra su questo ritrovamento abbastanza misterioso, cioè di questo cellulare. È andato a bruciare delle foglie, lo zio ha fatto delle pile di foglie, le ha bruciate, poi si è dimenticato che aveva lasciato lì un cacciavite, è tornato e ha trovato sotto le foglie bruciate questo cellulare che a quel punto era bruciato. E in caserma volevano sapere come mai non l'avevo visto prima, mi chiedevano: scusi, lei non vede le foglie mentre le ammucchia? E io a spiegare come funzionano queste macchine che ammucchiano le foglie tutte insieme, cosa vuoi vedere là in mezzo? Beh, certo, c'è questo nuovo giallo, il giallo del cellulare trovato dallo zio per la scomparsa di questa ragazza Sara di Avetrana. Ci fermiamo qui. Votate il sondaggio sulla politica, ci troviamo dopo il GR.